in primo piano. Sono arrivati davvero a toccare il fondo con queste intromissioni nel privato. Così Silvio Berlusconi nel caso delle foto scattate a Villa Certose, sul caso Noemi, nel quale l'onorevole Santanchè, ieri lo ricordate, proprio qui l'abbiamo letto su Libero, irrompe con le rivelazioni di un amante di Veronica. Il PD replica, è stato il premier a parlarne in TV. Ancora buongiorno dunque da Gigi Donnelly. Questo è sicuramente il tema corrente di questi giorni. Per La Stampa il titolo, dunque, Berlusconi toccato il fondo, ed è un tema che ritroviamo in gran parte dei quotidiani oggi in edicola. Naturalmente molte le declinazioni. Per Repubblica è parte l'attacco a Veronica, quindi la chiave di lettura è un'altra. Parte l'attacco a Veronica, leggiamo, a un compagno, dice Berlusconi, parla di questione di famiglia. Sulle foto scattate in occasione delle feste nella sua residenza sarda è stato toccato il fondo. Repubblica lega la questione, dunque quell'elemento, quello che è in apparenza per tutti una questione assolutamente familiare, a il caso Noemi, a quello dei voli di Stato. Si muove la procura, la questione è l'utilizzo dunque dei mezzi dello Stato per uso personale, come scrive Repubblica oggi, associandolo appunto a una serie di fotografie che in particolare riguardano il cantante Picella, come tutti sanno è molto legato a Silvio Berlusconi, insomma lo accompagna in una trasferta e la fotografia lo descrive mentre esce da un aereo di Stato. Quindi questo sarebbe il punto che associa lo scandalo alla vicenda in corso, ma ci sono altre notizie. Allora cerchiamo di vedere dell'altro. Ieri abbiamo parlato a lungo di questo scandalo tutto italiano, naturalmente continueremo a farlo, ma c'è dell'altro. Per La Stampa ampio spazio viene dato al percorso di santificazione di Karol Wojtyla. Al Vaticano ora tempi più lunghi per Wojtyla beato, dopo le rivelazioni dell'amica polacca di Giovanni Paolo II, un ampio carteggio con discussioni e lettere presentate e non presentate al centro di questa vicenda. Naturalmente per il quotidiano di Torino anche in primo piano la foto di un Rosina in lacrime, mi riferisco naturalmente alla fine del campionato di calcio che ieri ha portato il Toro in B, e Massimo Gramellini dice tutti a Gallipoli, insomma tutti pronti, in qualche modo richiama già il pubblico del Toro alla prossima stagione. Per il Corriere della Sera, che devo dire tra i pochi che sceglie di associare il tema Berlusconi ad aspetti di politica internazionale più ampia, Berlusconi incontra Obama, nuove regole per la finanza, vertice a Washington il 15 di giugno. Oggi intanto la bancarotta di General Motors, quindi il grande capitolo, l'altro grande capitolo che ci ha accompagnato in questi giorni, quello dei cambiamenti nel mondo dell'industria automobilistica, viene ricordato in vista di una puntata ulteriore e importante. Ancora spazio anche nel Corriere della Sera per la giornata sportiva, altri due elementi: da un lato il trionfo di Menchov, del russo, al Giro d'Italia, al Giro del Centenario che ieri si è concluso a Roma, ma anche l'addio di Ancelotti che in una fotografia a centro pagina viene ritratto in un saluto abbraccio al capitano Maldini, che ricordate anche egli è in appunto conclude la sua formidabile carriera proprio in questo campionato. Altri titoli: il giornale, il giallo dell'amante di Veronica, l'ultimo colpo di scena, fotografie in questo caso in prima pagina appunto di Veronica Lario a casa sua con un signore che, secondo quanto ha raccontato Daniela Santanchè ieri su Libero, sarebbe appunto il suo amante. Bene. Sul compagno di Veronica, smentita la Santanchè, questo è l'articolo di Paolo Colonnello dopo le rivelazioni dell'ex deputata. Vi leggo solo qualche riga. L'onorevole Santanchè, figliol prodiga del Popolo delle Libertà, ieri era tutta contento. In fondo ci voleva qualcuno che avesse il coraggio di dirlo. Il nostro presidente alla fine è un uomo molto solo. La gente non sa quanta solitudine è stato costretto a sopportare. Tutti a indagare sulla sua vita privata e nessuno a chiedersi della vita di lei. E a quanto pare la signora Santanchè ha, come dire, colmato questo vuoto. Vediamo altri spunti. Naturalmente come dire, il mondo va avanti, la realtà delle cose va avanti e un aspetto importante è l'approvazione del piano casa, quindi le regioni fai da te, approvati in ordine sparsi i regolamenti per le abitazioni, un tema che tocca e riguarda da vicino milioni di italiani. C'è anche sullo sfondo, emerge direi quasi timidamente, quello che in realtà dovrebbe essere la notizia della nostra settimana, visto che siamo alla vigilia di un voto europeo. Allora ci affidiamo al Messaggero per prendere dalla prima pagina un commento, una riflessione sull'Europa. Dice: il programma c'è ma non si vede, l'Italia dei partiti nasconde dunque nasconde l'Europa. Bene, questi alcuni dei titoli principali. Io però voglio presentare l'ospite che questa mattina è con noi in studio, lo ricordiamo, da Piazza Pasi, proprio alle spalle del Duomo a Trento, Gianpaolo Pedrotti. Buongiorno Gianpaolo. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, chiedo a Gianpaolo, giornalista trentino, responsabile capo ufficio stampa della provincia di Trento, di invece darci una mano a inquadrare quelle che sono alcune delle aperture dei giornali trentini e, diciamolo senza timor di smentita, insomma, il Festival dell'Economia al centro delle prime pagine. Sì, fortunatamente sì, devo dire, un festival che occupa non solo le prime pagine ma molte pagine interne dei due quotidiani oggi in edicola. Ricordo che manca il terzo Corriere del Trentino, che normalmente il lunedì non esce e che comunque ha seguito molto bene sin qui il festival. Se volete domani vi do per telefono un resoconto un di quanto diranno. Ma diciamo cosa abbiamo comunque, oggi. L'Adige titola con crisi grandi opere inutili, Lesina dice dal Festival dell'Economia di Trento che tra l'altro ci sarà un'ondata di disoccupazione anche nel 2010. Poi danno spazio sempre in prima pagina ai colleghi dell'Adige alla prima sentenza del Tribunale della Crisi. Sapete, ecco, forse vale la pena di ricordare, sì, un po' che cosa accade, perché il Tribunale è un po' inquietante, però è frizzante comunque, perché questa è una formula nuova, quest'anno è stata introdotta al posto di alcuni incontri di focus che si tenevano tradizionalmente intorno a mezzogiorno. Quest'anno l'appuntamento fisso è con la giustizia, una giustizia, Garimberti aveva detto, non si tratta naturalmente di un processo alla Norimberga, però sicuramente gli economisti qui si stanno mettendo a nudo da loro stessi, perché questo tribunale è proprio fatto da esperti di economia, ma i giudici poi sono degli studenti di economia che sono stati selezionati dalla Facoltà di Economia di Trento. In queste settimane, direi negli ultimi mesi, questo tema è emerso in maniera prepotente, perché è chiaro che la questione è legittima e come mai certe cose non vengono previste. Quello che qui cambia è che c'è una giuria che appunto ha un'età media bassa e quindi una grossa energia. Sì, sicuramente. Allora, la formula è molto interessante, molto accattivante, ci sono dei contraddittori, c'è la difesa, c'è l'accusa, escono fuori delle tesi, naturalmente gli economisti si difendono, poi comunque prevale il sentimento comune, gli studenti credo che non ne siano immuni, tant'è che ieri hanno condannato, largamente condannato gli economisti, ma qui non si vuole mettere al muro nessuno. A me è piaciuto ieri Jean-Paul Fitoussi, ha partecipato a una conferenza stampa in cui ha detto: ma cosa pretendete, che noi prevediamo qualcosa che non è lineare? Si può prevedere qualcosa che ha un andamento lineare, che ha un inizio e va avanti per la sua strada. In realtà la crisi fa parte di quei fenomeni circolari, una sorta di devianza, è imprevedibile. Certo però che è altrettanto vero che alcuni economisti l'avevano previsto e anche dal Festival dell'Economia qualche segnale di allarme era stato lanciato nell'edizione scorsa. Gli economisti che partecipavano ieri al dibattito hanno ricordato Rubinia, ad esempio, o Raghuram Rajan. Insomma, alcuni segnali non sono stati ascoltati. Gli economisti hanno anche detto: facciamo parte anche noi di alcune convenzioni, spesso abbiamo paura di dire le cose perché comunque facciamo parte di un meccanismo, delle pubblicazioni, delle relazioni, della credibilità. E in effetti, alla fine, questa crisi ci insegna che bisogna avere coraggio anche nel denunciare delle cose che possono sembrare scomode. Poi l'ammazzata finale l'ha data ieri sera Federico Rampini al Sociale, quando ha parlato proprio di gravi irresponsabilità e di atteggiamenti che in qualche modo si sono infranti, come se noi tutti, e in America in primo luogo, avessimo voluto continuare a sognare che le cose andavano bene così, anche di fronte all'evidenza che invece era un disastro. Sì, Federico Rampini ne ha parlato chiaramente dalla prospettiva dei giornalisti. È chiaro che nel ragionamento che tu fai è un discorso che si può ampliare e serenamente coinvolgere anche i giornalisti, sì, perché certo. Naturalmente la catena, tu parlavi di gruppi, naturalmente ci sono le responsabilità individuali, ma c'è anche il sentire collettivo, c'è il sentire delle categorie, e non possiamo dire altrettanto in maniera serena e onesta che il mondo giornalistico avesse previsto o in qualche modo illuminato, se non nelle solite eccezioni dei casi, come dire, capaci di segnalare l'allarme. Quindi, sì, ma chissà, proprio, magari un bagno di umiltà attraverso, guarda, Trento è stato, per tutti. È stato molto lucido Gianfranco Fabi, che all'inaugurazione del festival ha detto: insomma, anche noi dobbiamo fare la nostra parte, anche se non siamo direttamente sul banco degli imputati. Qualcuno ha anche detto: chissà, il prossimo anno si può fare un processo anche ai giornalisti. Ma comunque direi che l'importante è che ci siano i giornali. Assolutamente. Questa è una, sì, battuta, perché chiaramente abbiamo fatto una settimana in cui c'è questa, sì, enorme polemica sui giornali. Ma guarda che ieri oggi ne abbiamo parlato ancora una volta, vediamo i titoli molto diversi e la ricchezza di questa, il pluralismo di queste pagine che ci permettono di discutere. I giornali, e poi permettimi, anche i mezzi non sono più alternativi, stanno diventando predominanti. Insomma, certo, la radio è fortissima, il web altrettanto. Pensa che abbiamo avuto più di 3 milioni di accessi solo nei primi 2 giorni del Festival dell'Economia. Sto attendendo i dati delle successive connessioni, e funziona molto bene la web TV. Significa che la gente vuole essere informata e se le cerca le informazioni. Semmai il problema è quello della certificazione della notizia. Il la tema certificazione, della fiducia, questo è un altro grande fiducia. Tema. La fiducia, e si è parlato proprio, visto che continuiamo a citare, abbastanza naturale gli interventi del Festival dell'Economia. Proprio l'altro ieri si è parlato della reputazione. Adesso forse ripartiamo proprio da questa espressione, da questo termine che suonava un po' desueto e oggi appare così moderno e così prezioso. Prima però sentiamo come stanno andando le cose sulle strade d'Italia. In primo piano. Rieccoci dunque con la nostra rassegna stampa. Oggi dal Sole 24 Ore vi segnalo, a proposito di quanto vi ho detto poco fa, su quella che oggi che apre oggi, cioè la settimana che porta alle elezioni europee. Elezioni europee, nelle liste vincono i cinquantenni. Il Sole 24 Ore del lunedì ci racconta l'identikit dei candidati e ci dice che hanno tra i 45 e i 55 anni. Oltre alla politica fanno gli avvocati e i consulenti, e in genere sono uomini. Queste le categorie più numerose tra gli 828 candidati che sabato e domenica prossima si contenderanno i 72 posti italiani al Parlamento europeo. Un approfondimento dunque in vista del voto. Abbiamo parlato di previsione, allora dal Gazzettino di previsioni, e collego anche alle previsioni del tempo che abbiamo sentito. Abbiamo sentito di come l'Italia centrale nel sud oggi avrà brutto tempo. Beh, il nord-est l'ha avuto ieri. Dal Gazzettino il maltempo è stato addirittura una bufera sulla Vogalonga, come ci mostra una fotografia abbastanza desolante appunto nell'apertura del Gazzettino. Maltempo che è stato anche a Trento e dintorni. Purtroppo la giornata di domenica, dopo uno splendido sabato e venerdì, è arrivato appunto la pioggia. Pioggia che devo dire però ieri sera ha dato una tregua, almeno per concedere a dei beniamini del pubblico, ai ragazzi della Valsugana, come si chiamano qui, di cantare in piazza. Cosa è successo? Ecco, è successo che comunque i bastard, no, non è una brutta parola ormai, no, loro Bacco, l'hanno portato, i beniamini nostri, brand, ma che come molti, si in Italia, molti in Italia conoscono, insomma, grazie ai Bastard Son of Dioniso, quindi hanno suonato ieri in piazza insieme ad altri ragazzi. Insieme ad altri ragazzi hanno fatto parte del programma collaterale del Festival dell'Economia. Infatti sia l'Adige sia il Trentino dedicano a loro una parte della prima pagina, 2.000 per i bastard, in 3.000 dice l'Adige, poco importa per le cifre. L'importante è aver visto una piazza Dante, che solitamente non è così gremita. Che per davvero i non trentini è la piazza di fronte, antistante la stazione. È di fronte alla stazione, di fronte al palazzo della provincia della regione, quindi è un luogo istituzionale. Insomma, vederlo pieno di ragazzi e anche di non ragazzi ad ascoltare i Bastard e altri giovani musicisti è stato piacevole. Ci sono molti altri eventi collaterali che condiscono un po' il festival. Certo, ieri c'è stata la pioggia, oggi c'è un bel sole. Sì, ieri c'è stata un po' di delusione, diciamo. Infatti ho visto anche su una delle testate trentino, ora non ricordo, l'esplicitazione, c'è cioè la delusione per i numeri, i commercianti si lamentano. Sì, insomma, sul Trentino fanno anche qui, ma tutto sommato il Trentino cita la ristorazione ottimista, insomma, buoni affari nella ristorazione, negozi vuoti, sì, sono dei fenomeni che naturalmente a livello locale hanno la loro importanza. Certo, con la pioggia la gente va meno in giro, questo è un dato di fatto, non serve fare un festival per capirlo. In ogni caso oggi le sale in compenso erano piuttosto piene. Le sale erano piene, il festival prevede non soltanto teatri eccetera, ma anche sale accessorie collegate con i video, e anche queste sale accessorie erano piene. Questo significa che la gente per gli appuntamenti ci viene, vuole. Certo, se c'è il sole la città si fa vivere meglio, però ecco Giampaolo Pedrotti, oggi siamo in conclusione, è vero, ma appunto siamo in conclusione, cos'altro abbiamo per la giornata da segnalare? In questo abbiamo un altro premio Nobel che Michael Spence alle 18:30 al Teatro Sociale con Tito Boeri concluderanno questa edizione del festival, tireranno un po' le somme, forse anche alle 11 abbiamo una conferenza stampa in cui un primo bilancio cercheremo di farlo. E naturalmente gli appuntamenti soprattutto nella mattinata sono molti, il programma del festival è costantemente aggiornato sul sito ufficiale www.festivaleconomia.it e su Radio 24, e su Radio 24. Quindi, insomma, gli spazi di informazione ci sono. In una battuta, soddisfatti a questo punto? Come cresce, come sta crescendo questo appuntamento di maggio in Trentino? Posso rubare una parola di Montezemolo, lui quando è venuto qui ha detto innanzitutto complimenti perché ero stato qua la prima volta 4 anni fa, e vedere dopo 4 anni così tanta gente vuol dire che il festival è cresciuto, si è consolidato. Credo che se un osservatore autorevole ed esterno coglie questa cosa non possiamo che dirci soddisfatti. Grazie a Giampaolo Pedrotti, abbiamo ancora 3 minuti, 2 minuti forse per alcune segnalazioni, 3 minuti mi segnala Pietro Lacorte dalla nostra regia qui in Piazza Pasi. Allora parliamo di Palermo, rifiuti a Palermo, sfiorata la rissa in comune, i netturbini sono in agitazione per il buco finanziario dell'azienda per la raccolta dei rifiuti, i turisti si muovono tra sacchetti, cassonetti incendiati, Berlusconi su Napoli, perché naturalmente c'è anche ormai le catene dei temi dell'immondizia, e lui dice immondizia elettorale, insomma riparlare dei rifiuti a Napoli, lui afferma, è immondizia elettorale. Ma ci sono anche notizie che arrivano dal mondo, vi segnalo un attacco alla base italiana, elicotteri contro i talibani, la nuova base, una nuova battaglia, Balamograb, i mangusta, cioè gli elicotteri, quindi d'attacco in azione, militari respinti. Che cosa è accaduto ieri pomeriggio alle 16:30 quando i talibani hanno attaccato in simultanea i checkpoint dell'esercito afghano e poi la base italiana con mortai e armi automatiche? Una squadra di paracadutisti della Folgore aveva già preso posizione su un'altura intorno appunto a Balamograb. Nascosti fin dalla notte precedente, gli avvistatori hanno fornito le coordinate degli avamposti nemici permettendo di neutralizzarne alcuni a colpi di mortaio. Insomma, una battaglia all'interno di un paese da molti anni in guerra, vale la pena forse ricordare, visto che anche la nostra massima presenza militare all'estero, e che lo scorso 29 maggio i talebani avevano attaccato un esercito, una colonna afgano-italiana, e 3 afghani erano stati uccisi, 3 para erano stati feriti. Una notizia che vi segnalo invece sul fronte internazionale, imbattuta da Mosca, raduno anti-Putin, arrestato Limonov, quindi uno degli intellettuali, diciamo, d'opposizione riuniti nel gruppo politico guidato da Garry Kasparov, è stato arrestato. Continueremo a tenere d'occhio insieme con Radio 24, su Radio 24, quelli che sono i fatti internazionali. Bene, è tempo ormai di concludere. Un'ultima segnalazione davvero telegrafica, arriva la pagella verde della casa sul Sole 24 Ore. Attenzione, immobili, nuovi adempimenti. Non ve lo leggo, ve lo segnalo e vi invito alla lettura di un aspetto di cui si è parlato molto e che può permettere dei risparmi anche significativi. Siamo arrivati alla conclusione, dunque tempo di ringraziare tutti voi, di ricordarvi come è stato fatto che la giornata qui in diretta da Trento continua con numerosi appuntamenti, e ora di ridare la linea a Milano ad Alessandro Milan.